Ma io sono entrato, c'era Luca, mi sembra, c'era Roberto. E poi, non so, ho risposto al telefono e adesso ho visto che è tutto bianco. E anche io ero a corso al telefono 2 minuti fa. Ho mandato un video, ma cosa? Fabio Matto, non ho capito un cazzo di quello che mi ha mandato. Dice, va bene, ma ha scritto, boh, ma cosa sia? Messaggio in codice. Non so, ho fatto qualcosa ma non ho capito cosa abbia fatto. C'era una faletta tondo nero. Non si capisce se una cosa è extraterrestre, boh. Boh, Luca ci sei? No, non c'è neanche Luca, boh. Oh, vanno tutti a mangiare allora, dai. Tutti a rosicchiare sono andati, capito? Il periodo di rosicchiare è questo. Vabbè che oggi sono, la maggior parte erano tutti in giro, cazzo. Eh sì, oggi anche noi, avevo 2 mesi che non vedevo i miei genitori, oggi sono sceso in campagna a fare qualche lavoretto, perché in realtà c'era l'erba alta già un metro e mezzo. Gli avevo grido. E adesso mi aspetta il prossimo, la prossima passata d'acqua, dopo il caldo che fa, la prossima passata d'acqua che c'è il doppio, tu la tagli è come se non fosse tagliando nulla. IS0. IS0, papà lima Mike, che avanti. No, scusate, tocca a fare. Volevo sapere se c'era Roberto, come state copiando comunque? Che ragazza! Bracco, qua non arrivi forte, il segnale è molto basso di 2 e una radio di 3, dai. Se non c'è QRM ti ascolto, ma la mia antenna è proprio, non dico per terra, ma quasi. Ho capito, ma secondo Roberto mi ha dato questo microfono, dice che dovrei uscire benissimo, non lo so. Da qua se, da me se 9:10 radio 5. È tutto l'altra la minestra allora, ho capito. No, ma qua infatti con un segnale di 2, la radio è 4, quindi è buona, quindi è una buona radio, visto il segnale. E ho capo, tu dove stai modulando? Io sono a Monte Bassa proprio. Tutto copiato ieri, ho capito. Vabbè, adesso faccio un colpo di bassa a Roberto perché lo devo vedere, ma continuati, io sono in ascolto. Ehi capo, magari sta mangiando, vai, avanti Luca. Sì, no, qua ne va bene Bracco, voglia, Guarda, cosa non è meno 43 per caso, Bracco. Non ho capito, un po' forte la tua radio, dimmi, cosa hai detto? Cos'è la mia radio troppo forte? Un po', diciamo, arrivi forte come segnale, fortissimo, Però, vabbè che io ho un orecchio, non funziona più. Non ho capito cosa hai detto in poche parole. Ho detto se stai usando il microfono M93. Dunque, no, questo, sì, hai ragione, M93, sì, hai ragione. Ah, esci bene, a voglia, qua l'avevo modificato io, Roberto te lo può confermare. Ci ha mandato Roberto ieri, ma andavo bene anche l'altro, non è cambiato, non penso che abbia cambiato molto, cosa dice, la modulazione più forte, la radio minore, boh. Sì, è più forte la radio, non è che sia questa grande radio, comunque va bene, dai, già è chiara abbastanza. Segnale 9 più 15, sì, dai, più o meno, quasi 9:15, così, dai. E va bene quel microfono, va benissimo, dai. Poi siamo tra di noi, va più che bene. Male non esci, questo te lo posso garantire. Ho capito. Ascolta, dove stai modulando tu? Io al monte, vicino alla chiesa del Cuore Immacolato. Ho capito, mentre il tuo amico è il Monte Basso, non lo so, quello ho capito. Lui zona, dai, vicino al ponte di Rosello, è lì, guarda là lì. No, qua più giù, io sono proprio le ultime case di Sassari, le ultime. Guarda quanto cambia, vedi, tu c'hai anche l'antenna sul tetto, Lu. Certo, qua c'è l'antenna sul tetto, allora. E suono là. Lo Smith è impazzendo sta. Ma qua cosa si vede da voi? Lo Smith che impazzisce? No, segnale è stabile. Chissà se si è preso questo smitter, È qualche filo tocca o non tocca, no? Ma cosa ne so, non lo so. L'impianto l'hai seguito? Come? I fili li hai seguiti, quelli che arrivano allo smitter, dico, sono saldati bene. Sì, se non avrebbe funzionato, fra. Non lo so, c'è da cambiare oppure un altro problema di... non lo so. E mi ha fastidio, veramente fastidioso una cosa del genere. Lo fa solo in trasmissione però. In trasmissione, si è già perfetto. Non c'è niente, magari qualche saldatura fredda, qualche nel circuito stampato, ti può fare quel mancamento, capito? Controllatele bene, seguiti i fili, quelli che partono dallo smitter, vedi se sono saldati bene, se sono interi, può essere, non so, pizzicato, tagliato. Sicuramente, c'è un attimo. Avanti, Alessio, ci sei? Deve guardare il clima della M, SRF AM. Senz'altro da regolare quello, magari fa contatto a volte no, a volte sì, gli fa fare mezzo giro a parte, mezzo giro all'altra e poi gli fa la regolazione, lo mette a segnale di 9 come ho fatto io e rimane stabile. No, sono due diversi mi sembra, il VR1 controlla la ricezione, quello della trasmissione mi sembra che è un altro, per regolare la trasmissione è un altro. E attaccata a quello del CV doppio, ce ne sono solo due, sotto quello che stai dicendo tu, solo una attaccata all'altra. Sì, perché io mi ricordo quello della... anche questi qua li ho un po' aumentati, perché è molto, molto avaro come smitter, è sempre avaro, ma prima era peggio. E infatti appunto per quello, tu l'ho regolato a 9. Comunque bravo, già arrivi bene a voglia, 9.30 qua, a casa, qui a Carbonazzi, qui figurati. Bracco, ci sei? Comunque sono in ascolto perché non riesco a trovare il telefono, sto cercando il telefono, continuate. Capo, no, stavo dicendo che vabbè Alessio tu l'ascolti bene perché penso che siete molto vicini. Che hai detto? Che Alessio ti ascolta forte perché sicuramente è vicino a te. Penso di sì. Comunque copio bene anche a te, non ti preoccupare. Sì, sì, no, io purtroppo la mia antenna è attaccata alla finestra, quindi diciamo corre parallela alla facciata e non esce dal tetto. Però sicuramente ti avrei ascoltato meglio, Già lo credo, però il problema è che non dovete parlare molto veloci, porca miseria, perché anche se mi arrivi il segnale forte a volte, io ho detto che ho un altoparlante spento, come cavolo si chiama, non è che io che non funziona più, e l'altro un po' di fattore, quindi se parlate molto veloce non vi capisco, potete avere anche la radio più bella del mondo o anche il segnale più forte che esista. Beh, io già c'avevo il vizio di mangiarmi un po' le parole, comunque, anch'io ho perso molto di udito, comunque, ho messo una cassa esterna, quindi vi ascolto dalla cassa esterna. Ho capito, chi c'è rimasto in questo canale? Ma c'era Luca e Alessio, poi altra gente non lo so, anch'io sono entrato da poco. Mi devo segnare i nominativi che sono nella ruota, allora Luca... Sì, Luca, poi Alessio e poi io sono Franco, noto Freccia Rossa. Sai quello che ripara, forse Luca, ti ha detto Roberto, quello che sa riparare anche i baracchini. Tu che già si arrangia a fare qualcosa. Forse ho sentito qualcuno in chiamata. Chi chiama? Proprio baracchini no, però computer così, da telefoni. Ho capito, ma chi? Luca? Sì, sono Luca, al monte, sì. Capito, siccome Roberto me ne parla spesso di te, ho capito. Va bene, ascoltate, io adesso continuo a cercarmi il telefono, non so che cavolo che è andata a finire. Ok, provvisoriamente vi saluto, Luca, Alessio e Franco, ci sentiamo, non so, anche più tardi, ok. Beh, d'accordo, già siamo qua se coincide. Avanti Alessio per i saluti. Sì, d'accordo, ciao Braco, ci sentiamo la prossima dopo. Non c'è problema. Immobiliare.it. Mia Eugenio, mi senti? Ehi, buonasera, chi c'è? Francesco, Franco da Sassari. Chi? Ma mi senti? Oh, vabbè, io sono senza antenna verso quella parte, sono proprio cieco. Franco da Sassari. Ah, Franco da Sassari, ho capito. Fosso della Noce, giusto? No, sono qui Monte Basso, più basso non si può. Ah, ho capito. No, ma stai arrivando bene, dai. La radio è un po' bassa, però ti ascolto bene. Ma Fra, non è che sei Monte Basso perché sei basso, no? Tutti e due, dai. Sono in basso, più esco in basso, purtroppo siamo così, l'antenna è lì. Ah, ho capito, allora non li superi 1,70. Io sì, anche l'antenna supera i 7 metri pure. No, non dal tetto però. Si sviluppa dal tetto verso il basso, 7 metri. No, ma dico tu, lo superi l'1,70, 1,70. Sì, credo di sì, lo superavo, sì. Ah, ok, ho capito. No, non sei in basso, no, arrivo basso, ma non sono basso, diciamo non sono neanche alto, no? Un'altezza media tarda, diciamo, non siamo molto alti. Vabbè, ma qui ho 1,77 io. Sì, già oltre la media sarda, va. Insomma. No, dai, è una bella testa. Cappa, se come peso? 80 kg, va bene, sì. No, io peso molto meno, tu ne una quindicina. Vabbè, io sono male, forse per l'altezza, boh. A me piace mangiare, fra. Mica se ho mangiato qualcosina poco fa, non avevo molta fame, ma dopo ho un'altra sussa, eh. Io sono 1,65 centimetro più, centimetro meno, 1,65, forse 1,67 più, e peso 75 kg. E quindi? Devi perdere una decina di chili. Devo perdere? Dovresti pesare sui 65, dai. No, ho dovuto ingrassare, che mi serve fare peso. Ma hai l'accento come uno di Sorso, può essere, ma hai origini di Sorso, no? Io sono di Portotorres, che ha origini di Sorso. Io sono di Portotorres, puro sangue. Pure del proprio di Coglio, fra. No, perché un amico parla proprio preciso a lui, però è di Sorso, questo ragazzo è di Sorso. No, io sono un puro sangue, puro Torres. Oggi, ma di Porto Torres o di Giussicchi, poi più di Coglio, così è, boh. No, di Porto Torres di Coglio non è diverso. Aia. Cazzo, boh. È un casino, chi è? Avvisiamo Rigoiti. Sto scherzando naturalmente, ragazzi. Eia, ci chiamano su Sinti di Scoglio, boh. No, ci ho preso una cosa. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, Jay. Ciao, Jay. Ale. Eia, ciao, Jay. Ci sentiamo. Boh. Vuoi portarsi una moto qua a Sassari, perché qui è un bel... L'aveva controllato le palle. Un fendente si è falato, cazzo. Uno più macchinetto. Capita, anche un tipo di Alghero era un bel attaccabrighe questo qua, Nobilità, rompi scugliuti, come dicono in algherese. E poi alla fine l'ha fatto fuori un non dico un nano, ma quasi. Un corpo è a terra, l'appunto è rimasto nel bar stesso. Oh, questo ha fatto neanche 200 metri nell'angolo del bar. E si è cacciato a terra, capito? C'era di Paolo Torres, figurati. Lui già di Paolo Torres, lui e la famiglia. Era pugile lui, faceva il pugile, faceva. Quindi vivo la vita, abitava di fronte a casa mia. Il giorno prima, anzi 2 giorni prima avevo messo fuoco alla moto io, perché mi aveva rubato l'antenna dalla finestra, se l'avevo venduta. Siccome c'aveva quel vizio di rompere di coglioni, alla fine ancora non conosceva meglio, ho detto. Sei stato fortunato, gli ho detto, che c'è la bomba dietro la finestra. E mi ha risposto, non pensavo che eri così tu. Sta attento, gli ho detto, che a me quando mi si girano le palle, gli ho detto, ubicare quanto vuoi, gli ho detto. Sta tranquillo che quando saltirai da solo, non in compagnia. Ah, si è andata trasversale. Ah no, è stata una settimana cercando perché che aveva messo fuoco alla moto, ha cominciato a picchiare gente alla circolica, poi ha trovato uno peggio di lui, al bar, con suo Vittorio Emanuele, appunto. E così questo, lo stesso, ha trovato la scarpa sua. E adesso già è morto, la moglie dopo 2 giorni ha preso e si è fidanzata con un altro, quindi figurati tu, con tutto contento fu triggato. Chi è entrato? Buonasera! Buonasera Gianni, aspetta anche Giovanna, avanti Giovanni. Ciao Giovannina, come mai c'è così bassa oggi? È che sta usando il 3009, siccome di notte non sentiva quasi nessuno perché c'era la voce bassa, hai capito? Allora preferito attaccare l'altro apparecchio e uscire più alto di radio. E invece sta uscendo più bassa di ieri la mia. Io proprio non la sento niente, non è che l'altro giorno un po' la sentivo. Il segnale sì. No, a me non il segnale, ah no, aspetta che mi sta chiamando, si vuole la voce, cari. Ah no, ah, le vuole. Per carità. Ah, io si, va, si muove. Va, metti l'antenna fuori dalla finestra, io. Parlando sta. Antonio, fa paura, Ti sto dicendo che guarda, quando guida così, per carità, guarda, mi vengono i cosi, mi vengono, gli attacchi finiti c'è a me. Ma uscita di gamba? No, no, appena. Oh yeah, te ce la devi portare di cruci. Ti dico che ho portato, due mie zie, mamma, mamma, Giampiero, adesso lì. Ti manco solo lì, siamo a posto. Non ti azzardare. Tra un po' faranno un altro santo, San Pomponio. Non ti azzardare, se no poi Giovanni ti deve accudire lì, ah! Ah, se la porta giù, se la porta, la mette a fianco a Giampiero, capito? Fa prima a destra e poi a sinistra, a tirargli le palle in testa. Chi si porta giù chi? Ho detto, ti porti giù anche Simone, ha detto, e le tira tutti e due a padellate, prima a Giampiero, poi a lei. No, c'è l'assemblamento, non va bene qui. È vero, ci vuole la mascherina e i guanti, ci vogliono. La lontananza di un metro, anche due, non è, non fa, non fa. E uno se la volevo in terrazzo, cosa vuoi dire? Ah, aspetta, ti vuole con i fatti, le sta facendo, sta per far capo, lì. Se non mi ti registro il capo della tua, perché è quella luce, non lo voglio fare anche la tua. Cosa mi fa compagnia, non la fa dire? Vuole il capo della play, ma quello lo chiedo alla Reccia, sali e glielo ho chiedato già in camera sua. Prendi Gianni, fai girare. Ma Reccia tu ce l'hai. Ehi, vive con me Reccia, c'è la lì. Ah, ecco. Ho capito, vabbè. L'ha fatto magari per toglierlo, perché c'è Giampiero che è malato, va. E adesso c'è cosa, Puglia. Sì, vabbè, ma cioè, perché mette meno doppi palle e quando si muova. La mattina quando chiama Alessia che si mette a voce, Ale! Poi Alessia è peggio che gli fa zia! Quando sono con l'addormentata. Uia! La rimetta a macchina! vabbè. No, non abbiamo sentito Franco, per niente, non è entrata. Invece non sta più entrando, no? E ha preso delusione. Sicuramente perché non lo sente nessuno e lui ha paura di disturbare, si mette in problemi, io l'ho capito. Ha paura di disturbare magari perché c'è quello che lo sente, quello che no, e quindi magari si ha messo il problema che può disturbare, capito? Che sa vedi, questi giorni adesso anche oggi sono uscito, gli avrei portata. Visto che non è che lui, gliela porto io. Oh, ma adesso lui già si può muovere, se vuole già si muove. Non lo so, magari se lo sentite mi fate chiamare, Claudio già ce l'ha il mio numero, me. E lo diciamo, ma non si sta decidendo a piazzarsela questa antenna, ha paura, buh, già ne so. Ma questo la può mettere anche nel suo terrazzino, sicuramente qualcosa in più penso che la guadagni, dai. Dovrebbe, sì. Ma se si fosse deciso a fare lavori come si deve, cazzo, una volta per tutte e non ci pensa più. No, se ognuno fa i suoi ragionamenti, boh. Va bene a lui, va bene anche a noi. Non è detto, perché se tu non lo senti, l'altro lo sente, a noi fare un questione così non è che è bello, dai. Uno lo sente, l'altro no, l'altro è meno. Dovrebbe fare qualche cosa. Io molti non li sento, tipo di vedere Riccardino, vedo, ho problemi a ascoltarlo. Stasera casualmente mi arrivano segnali di 8, ho detto ma hai fatto qualcosa, gli ho fatto anche complimenti. Invece no, sono qua, dice, vicino al mercato, col portatile, con un antennino piccolino, là. Ecco perché, mi ero già illuso. Là. Dice, visto che non ci arriva l'antenna, ci vengo io lì. E allora come, lasciare l'antenna lì al mercato, si fa una prolunga fino a Filigheto. No, ma lui si mette un'antenna performante lì, vedrai come arriva. Arriva da tutte le parti, quella lì è una buona zona. E comunque l'altro giorno, ti ricordi che gli ho chiesto, non so se tu c'eri, se il compagno aveva comprato una macchina, un Suzuki Nero, e si è ricordato, gli avevo venduto un fuoristrada tanti anni fa. Ah, a lui, al padre? Sì, sì, al padre, adesso già me l'ha confermato stasera. Ma questo il padre lo conosce? Eh beh, l'ho conosciuto perché abbiamo fatto il passaggio di proprietà. Mi sembra che la macchina gliel'ho anche portata a casa dove abitano loro, dai, nel ranch. Andave. E quindi tu lo sai più o meno dove è? In alto? Beh, non è in alto perché praticamente lungo la ferrovia non è sul versante, diciamo, verso Sassi, lui è sul versante lato, diciamo, verso sotto, da quel versante lì, rispetto alla ferrovia, salendo verso Usilo. E non è una zona bellissima, non è alta sicuramente, cioè rispetto a me è coperto praticamente, il monte sale, lui è dietro la montagna, ecco perché qua non arriva. Ah, ecco. Sì, ci abita un mio amico, Tonino, che è autista sempre anche lui di Pullman, però lui abitava nel versante destro verso Sassari, leggermente più alto, ma no, non tantissimo. È un po' difficile anche, me ricordo, anche difficile da trovare come zona, come strade. Comunque, sono passati da parecchi anni, forse non era neanche nato lui. Figurati, quindi già 14 anni sono da eliminare, perché lui c'ha 14 anni, poi chissà quanti anni in più sono passati. E per dire, Natalino abitava lì a Filighi Dubacca e arrivava forte a tutte le parti, però lui era in una zona che rimaneva a metà, non era nato in alto. Non lo so. Lì c'è Barca, sarebbe dove c'è il ponte, lì c'è un ponte di Barca, lungo la ferrovia c'è un ponte che si chiama Barca, è molto alto. Quando ci passavo sopra con le macchine operatrici mi facevano vedere il padre, perché mamma mia, se deraglio qua non mi raccolgono col cucchiaino. Perché non c'è protezione? Sì, ma io, tu figurati, questa macchina, tu immaginati uno scavatore grande che praticamente abbassa i rotini, tu ti metti sopra la ferrovia, abbassi i rotini e cammini su uno scartamento di larghezza che è 95 cm, con una bestia da 18 tonnellate. E si tiene sopra un bordino di 16 mm, cioè la ruota, diciamo, entra nella rotaia per un centimetro e mezzo, un centimetro e sei. Quindi basta una qualsiasi cosa, una giunzione un po' bassa, che tu ne salti fuori dal binario, e sopraleva, poi sei in curva lì, il ponte in curva e sopraelevazione, non ti trovano più. Vabbè, dovrebbe fare il suo attrito, dai, col peso che ha, dovrebbe fare attrito. A volte comunque si arrampica, perché ferro con ferro a volte tende a arrampicarsi, poi le ruote si consumano, le rotaie si consumano, quindi non è più a spigolo vivo, ma lo spigolo diventa arrotondato. D'estate, guarda, facciamo un rumoraccio in curva, un attrito enorme, e qualche volta tendeva anche a arrampicarsi. Infatti a volte eravamo in due, uno a terra controllava in curva, no, torna indietro che sei già sopra, ritornava a sedersi sulla rotaia. Poi l'abbiamo passato, meno male adesso quella macchina non la stiamo più usando. Ovvia, erano macchine grosse, macchine operatrici, perché cosa le usavate per tirare sulle binari? Ma quelle hanno un sacco di attrezzi, con quelle puoi fare, hanno il trincia, quel decispiatore enorme, no? Tipo una fresa che distrugge tutte le ramaglie, alberi, teneri, dai, no, rami non più di 5 cm, massimo 10 cm, ma esagerando, si già fare danno alle zappette, canne, roba così. Poi c'hai delle pinze per portare rotaie, le strisciare per prendere le traverse, c'hai benne per scavare di tutte le misure, c'è il polpo, quello per prendere ferraglia, c'è un sacco di attrezzi, dai, ne fa lavori con lui. È una macchina fuori lavoratrice, dai. E poi, non so, prima che passi il treno, abbassi, sollevi i rotini e te ne esci fuori dal binario, cammini su gomma, devi avere delle piattole naturalmente, quasi a pelo di rotaia, dai, per uscirtene. Certo. Vabbè. Tu sei proprio su un carrellino praticamente con questo mezzo qua, sei su un carrellino che ha le ruote che si abbinano alle rotaie, dai. No, è proprio immaginati uno scavatore normale, uno scavatore però non cingolato ma gommato, uno scavatore grande però con le ruote gemellate, cioè quattro ruote davanti e quattro dietro. Ah, sotto ci sono questi ruotini idraulici, tu ti devi allineare sopra il binario, abbassi i ruotini, praticamente le ruote non toccano più in terra perché toccano i ruotini che tu stai abbassando. Ah, ho capito, è tutto. No, pensavo che salissi su un carrello che avesse le ruote per camminare sui binari, no, invece è proprio il mezzo che ha le ruote idrauliche. Sì, sì. Quello che abbiamo noi è il Colmar, si chiama Colmar. Quella invece è la Matisa, la Matisa o la Glesmack. La Glesmack c'ha un carrellone con la gru, perché anche lì li puoi attaccare le benne per scavare, puoi fare quello che vuoi e caricare i carrelli, quella che usavamo per togliere le frane e tutto. Poi abbiamo una che fa il livello, cioè praticamente solleva il binario e mette la ghiaia sotto, una rincalzatrice. Quella adesso è andata a finire a Cagliari. E poi prima avevamo la Plaster, quella li faceva tutto da sola, lavorava in autonomia, praticamente tu gli davi il sinco, la partenza, e lei lavorava da sola. Sollevava il binario, dava la linea, rincalzava, tu gli dai i dati, scaricati in un file nel computer, la fai partire dal punto giusto e lei sviluppa tutto il lavoro, sopraelevazione, controlla tutto, allineamenti, faceva tutto da sola, in automatico. E poi c'è la profilatrice, quella che è vicina alla ghiaia, e la spazzola, quella che spazzola, che toglie la ghiaia in eccesso, la risanatrice, che quella lì faceva una polvere tremenda, praticamente c'era una catena che passava sotto le traverse, svuotava tutta la ghiaia vecchia, la vagliava, quindi la puliva, toglieva le porcherie, faceva una cerita, quindi lasciava solo la ghiaia di una certa misura, e dietro la faceva ricadere dietro di lei, dai. Ma non ti dico la polvere che faceva la macchina lì. Ci posso credere, se rimuoveva tutta la ghiaia di sotto, normale. Con chi sei tu in lotta? Fra, ne abbiamo forse parlato un po'. Sì, perché eravamo, diciamo, l'avevo preso dal lavoro. C'era Alessio, c'era Luca, c'era Giovanna. Avanti, Alessio, perché Giovanna io non la sento. E a cappa, c'è anche Luca comunque. Giovanna, ci sei lì? C'è qui Giovanna. Avanti, Gianni. Ehi, io parlo solo con Giovanna, con gli altri non ci parlo. Io parlo con Muro. Adesso parli con me, ti ricordi a Paoletto? Paoletto, che Gianni vuole parlare con te, io ho risposto, allora io parlo con Muro. No, tu parli con noi, siamo una grossa qua. Ah, che sto scherzando, Giovanna. Lo so, dai, era tutta una battuta. Avanti, Luca. Aspetta che mi metto le cuffie, che ho quasi. Luca, ma niente, donna. Non ho capito nulla perché ti hanno parlato sopra, Giovanni. Stanno attaccando le cuffiette perché ci sono i bambini sono vicino a lei e ci hanno il telefonino acceso, capito? Non se ne capisce una fanculo. Ah, anche io sto cercando dove c'è le cuffiette. Sempre con questi telefoni in mano, non mettetevi da parte. Anche io se vado su Facebook, questo, quell'altro, ci sono saluti, ci sono buonanotte da rispondere, ma cosa mi nascondo? Quando ne voglio rispondo, se no non rispondo nemmeno. Vero, fra. Anche tu sei assicurato al telefono, fra. No, ho acceso il portatilino a vedere se c'era qualcuno in 144 o in 440, a vedere, ma non c'è nessuno. Ora vi sento, forse vi sento anche troppo storti. Che bello, Giovanna, ti sento bene adesso. È un po' aumentato. Giovanna. Dimmi. Adesso ti sento bene. Anch'io un pochino di più perché c'è uno dietro che salta. Vabbè, ma io come ti arrivo lì? Tu? Come ti arrivo lì di segnale? Prova un po'. Prova radio. Vabbè, Giovanna, incantato di sì. 105. La radio com'è? Ottima direi, ce la vedi. Avanti. Non capito, come arrivi? Non ho capito. Santiago 5. Sì, non me neanche mi sente allora. Ma dipende dalla sottenda. Sai se te ne avessi messo una sottenda anche a te? Con calma, col tempo le cose si sistemano, tranquilli. Lo so io che si sistemano col tempo le cose. È vero, è vero. Ci vuole solo anche un po' di pazienza. Fate nel modo giusto, pensate nel modo giusto e poi accadono. Via. Ma noi vogliamo sentire la tua voce più vicina. La mia piccola voce, la vocina. Poi? Poi noi. Ah, avanti. Ecco, quando non si può fare una, tipo uno sdoppiamento, utilizzare la stessa antenna di Alessio? Sì, magari. Metti una specie di T, dai, tutti e due usate la stessa antenna, una deviazione, una Y. Sì, sì, sì, non è così facile. Cosa succede? Va a fare a danneggiare l'altro apparecchio? Io ci voglio danneggiare l'altro apparecchio. A parte che il cavo giù non lo posso neanche scendere. E capito, il discorso è quello, è un casino. Se no avrei fatto come facevo prima, che a primo piano c'avevo due calate di cavo reggitoce, tutte le vici, nel fianco del tetto. E ma, siccome dopo così non li vogliono vedere, perché hanno fatto la tinteggiatura un po' di anni fa. Hai capito? E quindi i cavi così, semi neri, sono tutti a vedere. Petro fluviale. E l'ho già fatto, l'ho buccato e un giorno si è intasato e hanno tagliato tutti i due campi, compreso anche per il fluviale, quindi figurati, lascia perdere. Devi mettere un pezzo di vernice su, in modo che la roba che cade, cioè che scende non vada mai dentro il tubo, ma si fermi nel filtro, capito? Oh no. L'unico è fare la calata del capo dal tetto al bagno, solo così posso... Devo beccare lo sfiatatoio che parte da casa di Giovanna, che sale direttamente sopra, capito? Tanto vette non ce n'è. Una volta che ci metto una lenza con un piombo, scende giù e poi si raccatta, capito? Con un gancio. Ci vuole un piombo con un affare luminoso che illumini il tubo, capito? In modo che quando passa si noti dal bagno. Allora, da lì stesso ci scende direttamente il cavo giù e l'è fatta. Poi dal bagno Giovanna viene facile a fare il lavoro, perché fa un foro e entra direttamente in camera da letto. E ti piacciono più un cavo? È l'unico modo che fa scendere il cavo a casa sua. Perché c'è la ventolina, capito, nel bagno piccolo, quindi l'unico da lì. E poi da bagno devo fare anche nel bagno. Al muro di qua c'è la doccia ancora, dove non farlo passare. Lo sto dicendo, dal bagno stesso, nel fianco, entri direttamente in camera da letto. Non c'è la doccia, c'è come si chiama sopra, in quel lato lì. Sotto c'è il cesso, c'è il coso dell'acqua, quindi se buchi in alto entri direttamente in camera tua. Se no quando vai in bagno accende il baracchino, se no c'è in bagno, tanto gli amici si vedono al momento del bisogno. Bravo. Ah, che senso. Al momento del bisogno, quando sei gargendi. Mi. Evitiamo una parola a doppio senso. Casi, ce ne sono due, con due figli, ma secondo te uno sta in un bagno o nell'altro, in profumo? Come porto il giornale, il telefonino, per distrarmi. Infatti ho attaccato tutte le fotografie degli amici in bagno. No, ma sai che c'è un caldo in bagno? No, adesso che sto col caldo, no, non sono. E ti metti sotto la doccia e ascolti. Sì, una bella scossa, certo. No, non ti prendi la scossa. Avanti, Luca, se ci sei. No, non penso a che ti piacciono le stazionarie. Che? Fabio, la cuoca, guardatela tu. Ciao Fabio. Sera. Fabio, da Muros? No, sta provando, sta una storia. Ah no, perché sennò c'è un Fabio da Muros che lo sento anche lui molto basso, quindi pensavo che fosse, anche se la voce è effettivamente diversa, dai. Comunque è ben entrato. Eia. Sì, prendi. Stava parlando Franco, ho aspettato Fabio anche. Ciao Fabio, mi hai messo una cosa a fare, non ho capito da qualcuno cosa diavolo è quella cosa tonda. Mi hai scritto, va bene, che cos'è? Era una fortuna per la sinistra, non ti piace il genio. Ma ho visto questa cosa nera, non avevo capito proprio niente la verità. Già va bene, già. Quello perché? Quando ci vediamo, poi ne fai tutto che preferisci. Va bene, d'accordo, caro. Avete l'accio di cicali, l'attacco più piccolo era positivo, vero? Sì, quello è positivo, quello più piccolo. Invece i due lati, in pratica è la massa. Mi sa che vi faccio l'attacco e lo metto in macchina. Basta fare così, io ce l'ho già così il baracchino. Con l'attacco c'è di sigari, capito? Non lo voglio tagliare. Anche perché se taglio quell'attacco perdo la garanzia dell'apparecchio che ho comprato. Hai capito? Se lo messo difettare lo disperisco nuovo sopra. Ma io l'ho tagliato perché nell'altra macchina c'avevo le bananine e quindi ho fatto l'attacco a bananine, ce l'avevo anche io c'è di sigari nel portatile. Però ho tagliato perché praticamente avevo le bananine femmine, ho attaccato quelli maschi e non facevo altro che attaccare le bananine per staccarlo oppure staccarlo. Ehi, capitano, so, già ti ho capito, ma io adesso faccio passare un anno di garanzia, poi lo taglio con l'attacco, capito? Adesso non lo tocco, perché se dovesse magari difettare il baracchino, con la fortuna che ho io, quando compro la roba nuova, capito? Adesso l'ho acceso l'altro giorno, gli ho fatto l'attacco del microfono al Parino, sia delle MB+4 che le M93. E io mi sono lasciato il microfono suo originale. Non ne ho messo altri, non lo tocco, lo lascio così, capito? Ma non è questo che stai parlando adesso? No, questo è la 87, questo qua. L'altro è per carità, esce proprio tutto quanto soffocato, esce, capito, di radio. È bellino il baracchino di ricezione, tutto quello che vuoi, è bello di estetica, però in trasmissione c'è una capsula autoparlante, capito, a 150 ohm, quindi l'ha già lasciato così com'è, non l'ho neanche toccato. Quando adesso in seguito mi metto un microfono amplificato, mi metto, tra l'altro c'è quello del FM500S e attacco quello, l'F10. Lo sto uscendo come ieri, liscio. Ho messo il microfono a uno addirittura. Oltre alla batteria scarica, dice il gruppo saturo, a me è un po' compresso, capito, un po' dinamico, un po'. Prova a calare un pochino, a cambiare batteria. La batteria è nuova. Sì, è nuova, bella rossa, non lo so. Il led è bello rosso, strano, mi stai effettando così. Aspetta che attacco l'altro microfono, allora quello palmare, con la batteria da 1,5, vediamo se cambia. No, è la potenza del microfono, si abbassa appena, ma adesso non lo fa più. Non è graffiante, capito? Aspetta, cambio il microfono, e sta arrivando. Va, Gianni. Figlia, io non lancio tante e tu lo dici a come lo ricevi a Fabio? Bacino, prova a fare. Se vuoi prova, anche io ho difficoltà a comprenderli in momenti, sono internati punta da dove, a casino. Fabio è quasi 4, non c'è 4, 4 scarso. La radio è 2. La radio com'è? 2, basta. Ah, non va bene. I controlli che facciamo a me sono Santiago 1, Radio 5. Lo so, però probabilmente il fatto che tu arrivi basso di segnale ti abbassa anche la radio, capito? E l'antenna puntata magari dall'altra parte, io sono verso via Baldetta, non so se tu sai dove. Sì, lo so. E però perché il giugno l'antenna dove puntare lì. Loro devono veramente puntare da quella parte, poi sono i palazzi in mezzo, siamo là sotto il casino. Vabbè, io non so proprio via Baldetta, ma la zona è quella, dai, sono la parallela. Sì, devo chiamare l'antenna, adesso mi arriva un pezzo di carta qua, al condominio l'ha posto, capito? Ma che antenna sei dato? Sei operato con 2000 euro? Tu sì, è chiato quella. No. Tornare come la prima con la manta eccetera non esiste. E c'è un'antenna leggera tipo la Game Master come ce l'ho io, è leggera, pesa 2,5 kg, cosa perché faccia, solo che è lunga, è 7 metri. Purtroppo ho sentito qua, lo sai. E senza radiali, è tranquilla, leggerissima. Ma quanto dai? La Game Master. Ma non si può salire sul tetto, c'è un angolo molto affetto sul terrazzo. Qui ci metto lì, metto la base magnetica e dovrebbe avere un pezzo di massa e provo a uscire così. Ma a quel punto ho preso su FM sui 107,9 anni fa, con un watt, un solo watt, coprivo tutta la casa. Ci credo. Io prima avevo fatto il mezzo col portatile e arrivavo anche al ghetto, ma prima c'era meno, diciamo, inquinamento atmosferico. E infatti prima c'era meglio. Ad oggi ha con 7 watt, e anche nel costruito io quelli a watt di utilizzato gas, di RAM, e coprivo tutta la città, tutta anche il mare mi sentivo. Ma Olbia come? C'è ancora gente? Ma Olbia? C'è ancora gente che modula? No, ora che si vede sulla 27, praticamente attaccavo la palla così tanto, così buttavo l'antenna fuori per sentire, magari lo tenevo 2 giorni acceso, ogni volta che trovo la palla fuori ho spazzato l'altro, praticamente non ho parlato con nessuno, ho sentito solo qualcuno lontano, forse nel camion, una volta, ma 5-6 anni fa, credo che sia più nessuno sulla 27 proprio. Non è di moda, loro sono troppo figli per fare palazzino. Guarda, io avevo preso un anno la casa lì dietro Città Mercato, in via Mare, e ci ho provato, mi ho fatto il baracchino in macchina, più che camionisti non sentivo, non c'era nessuno. Sì, tutto punto, tutto punto, non c'era nessuno. Tant'è che avevo due apparati a Rubia con una magnetica e praticamente mi tenevo qualche giorno così a vedere se c'era qualcuno, quindi mi mettevo dentro, vedevo dopo 6 mesi, dopo un anno, ma non c'era nessuno. Quindi non c'è più nessuno, avanti. Sto rispondendo, mi hanno mandato un messaggio, sto rispondendo a un amico. Vai Ali, Giovanna. Che voci sono? Ma ci sono incantati. E adesso ho preso l'altro microfono, guarda un po'. Non lo so, non è la tua radio. Non lo so, non è la tua. Vabbè, boia, adesso ho cambiato il microfono, quello della Inter che fa il male. Sentato se avrei toccato così il potenziometro del coso. Del clavifer, magari. E ti sei spostato in gestione, cosa ne so? E mi ha posto. Centrato. Avanti Giovanni. Aspetta un attimo, no, c'è un messaggio un po' tanto però. Sì, è d'accordo. No, è troppo buio. Ah, tu sì che mica mi innervo. No, già va bene. Ma tutti i studi, sono giù, aspetta un attimo. Ieri che ora avete fatto il turno, quanto è? 2:30. Questa mattina quando mi sono svegliato alle 10, tanto per essere sveglio, ero svegliato alle 7 perché si è svegliata Simona tutta la mattina, poi il telefono destra, sinistra, destra. Poi ho pranzato. Dopodiché ho mangiato quella specie di cose gratinato e c'avevo questa cosa, specie di cosa ti posso dire, tipo punture al petto, capito? Prima da una parte e poi dall'altra, cosa ho fatto? Ho preso, ho bevuto un po' di lanciata, dopo la mezz'ora mi è passato. Oia, oh, io ero a bruciare di stomaco, non capisco da che cosa, perché non è soffro, avevo qualcosa che non avevo digerito. No, io proprio, questa è una specie di punture, capito? Prima da una parte, nel petto, poi dall'altra. Già ho preso e mi sono preso le voci dell'Exota. E mi sono addormentato fino alle 6:30. Poi ho fatto il sugo, ho lavato tutto in terra, pulito tutto quanto, ho tornato a casa. E poi c'era poco fame. Già siete poco delicati. Controllare subito, Marco, Alice. Usa lo stesso, vicino a Pettolo, al cuore. Ah, Girappetto, disse. Ma Girappettolo, quello ce l'ho già. Te l'ha detto in latino, te l'ha detto. E allora, in latino. Ma sono dei dolori intercostali, dai. No, non sono dolori, sono punture diverse. Delle fitte. Delle fitte, fini. Prima da una parte e poi un'altra all'altra, poi mi è passata. Capita, vai, specialmente quando prendi aria che vai a dilatare i polmoni. No, è normale senza dilatare niente, quello già l'ho capito anch'io. Quando fai lo respiro profondo ti fa male tutto il petto, sembra che ti stia, che ci sia uno che ti stia premendo il petto con le mani, per dire, quello già lo so anch'io. Quello viene a volte mal di petto, a me mi viene spesso, magari ho preso freddo, roba del genere, capito, o magari dallo stress. Ho sempre avuto l'acqua dell'Exotan, siccome soffro di panico, capito, anche di panico e di ansia, quindi dopo una mezz'oretta mi passa. Insomma, portate a lontanare bisogna. Avanti, ma. Facevo tutta la body mood di moto io, senza giocare, arrivare a Sassari. Solo acqua mi prendo a pigliare la cosa, o pigliavo Simona quando lavorava a Pizzicotto, in piena estate una passata d'acqua, tutto bagnato, dalla punta dei piedi ci va la testa, mi ci mancava solo che qualcuno mi metteva lo sciampo era a posto. Ma chi ha? Ma per forza, perché non seguono quello lì, l'ho rilanciato a Marco, non l'ho preso tutti quanti. Avanti, Capo, ma c'è anche Marco. Ehi, sono qua. Cosa stavo pensando? Questo giro di messaggi, tu la foto a Popolio, poi la foto a me, poi tu la foto a Popolio, poi Popolio a me, e poi tu a Popolio, e poi a Popolio. Antonio, dammi il mio telefono, facciamo prima. Ah, di quella, vabbè, ma tanto è una cosa isolata quella. Adesso che l'hai vista, guarda, io appena posso salire da Lidl o da Rospini a Calo Felice, alla prima uscita convoco Pomponio e gli consegno il pacco. Già, te lo devi convocare, sai che ti va le mani io. Lo convoco, faccio l'interrogazione parlamentare per Pomponio. Cuocuomo l'hai sento. Ora Pomponio, eh? Io sì, molto cuocuomane. Pusanita, Dai. Porco. Mi ha fatto l'amore fino alle 2:30 ieri sera con Marco. E Joe Fester. Fino alle 2:30? Sì, fino alle 2:30 avevamo baracchino ieri notte. Come i vecchi tempi, se facevo anche le 3, le 4, le 5. Vabbè, ci mancavano le donne. Giovanna ha chiuso prima. Alla una mi sembra che aveva chiuso Giovanna, quindi figurati. Comunque siamo divertiti. Aspetta un po', ma non erano le 2:10 quando abbiamo chiuso? No, le 2:30, caro. Perché stavi... ciao, sto chiudendo. E poi rientravi subito. Quattro volte sei chiuso e sei rientrato ieri notte. C'è sulle 2:30. Porca miseria. Sì, Antonello, credo che ti vengano le punture però, se ti senti poco bene. Alle 2:30 eri, hai chiuso, alle 7 eri già in piedi. Ma aspetta, come mai a Giovanna me l'hai? Vai, il pazzello, stai qua. Aspetta, sale e scende, ne impazzisce, come mai pompo? Già può essere. Ti ho detto poco fa, forse non hai ascoltato. Guarda che c'è il trim della regolazione dello smitter in trasmissione, capito? Evidentemente è leggermente sporco. Gli va a destra o a sinistra appena e gli fa di nuovo la regolazione. Lo metti a segnale di 9 quando schiacci importante e verrà a tornare come prima. Quindi, guarda che è attaccato al trim della CV doppio, quindi c'è poco da sbagliare. Risulta sotto quello SRF della ricezione. Ecco, Giovanna a Cattano mi arrivava a Santiago 9, adesso mi arriva a Santiago 1. Come 1? Santiago 1 arriva da me, Giovanna. Ma oggi, Giovanna, c'è Giovanna? Ci sei? Sì, sono qua, ho cambiato l'altro apparato. Ah, com'è possibile, Lu? Ma arriva 9 qua. 9. Ti faccio vedere il video, Lu. È incredibile la differenza. È strana anche la cosa. 6,5. Ti arriva a destra? Nulla, non si muove l'ago. La sento appena appena. Prima nulla, adesso è un po' attento di modulazione. Me ne arriva segnali 1 radio 2, dai, mi senti Giova? Sì, si sento bene. Arrivi segnale 1, poco a poco Fabio mi arriva a 5 e tu vabbè, i segnali sono a posto. Secondo me lo spostamento dell'antenna ha fatto quel problema. Cesso, ora se smette mi sta a rompere le scatole, ma manco le guardo, mi fa venire i nervi, guarda. No, vabbè, Giovanna adesso non sta usando il noise, quindi togli un po' di watt in meno, ho capito che c'ha. Da 20 watt scende a 5-6, c'è una bella differenza. Sto usando il tornado adesso, Giovanna, perché se attacca noise arriva molto più forte. E attaccalo! Sì, ma non sentite il radio, perché c'è una maniera di parlare a voce bassa, capito? Hai detto, Fabio, attacca il microfono alle labbra. Sì, vabbè, per adesso, tanto. Io sento solo il beep. Ho detto per adesso, tanto. Vabbè, adesso vediamo. Si copre il cavo, vediamo un po' di allungare il cavo. Rimettiamo l'antenna nella caldaia. Come la prima, poi la faccio passare lungo il muro e direttamente in camera da letto il cavetto, capito? E poi faccio la modifica, in modo che esca meglio. La caldaia c'è più piano di massa, capito? Ci sono i tubi in rame, quindi conduce meglio, capito? Aspetta, Giovanna, fai un passaggio lungo e controllo meglio il segnale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, prossimo al 9. Come dire, 8 e mezzo, 8 e tre quarti, dai, quasi 9. Marco, vuol dire che a te arriva 9 e a me arriva 1. Prima mi arrivava 9. Ho spostato, in terrazzina c'era freddo, ero fuori casa, ripeto. In camera sono dentro casa. Anche a me è Santiago 1, ti faccio passare. A me è 4 e mezzo. Sì, vabbè, dipende da una zona, dai. Sono con l'antennina da mettere sopra la capota della macchina. E mettere in testa tuo fratello l'antennino, magari arrivi 9.30 qua. E poi Luca, ricordati che i 3009 hanno tutti lo smitter tizio, quindi Santiago 5, se è come il mio, cioè Santiago 1, se è come il mio, dovrebbe corrispondere in realtà a un Santiago 5. Guarda il messaggio. Tipo quello che dici tu, il Samurai, il Galaxy. E bisogna fargli quella cosa di cambiare il diodo della sensibilità Smith, mettergli quella al germanio di una certa sigla, che è molto più sensibile, e poi bisogna ritarare con gli strumenti da laboratorio, però, col generatore di segnale. Allora io un po', dal treno mi ha dato un po' più di guadagno, sennò era scandaloso, dai. Sì. In questo momento lo Smith non funziona, c'è da controllare tutto quanto, ma lo lascio così, non vada. Stavamo parlando di 4. 5. Mannaggia, a me mi sono comprato le Fiesta, mamma mia, sono come le ciliegie, una tira l'altra. Ci vuole più alla fame, Luca. Ehi, a fare allora. Ci l'ho visto Marco il video, cosa vuoi ti dica? Boh. Non so cosa dirti. Non mi vedevo questo Smith, quanto sei da 39, così è. È venuta sfocata un po', sì, questo è lo Smither Blue del 3009 attuale, quello omologhe. Sì, sì, uguale a questo qua, là, al mio. Se vuoi ti faccio il video, vedi quanto arriva. Ehi, che poi i colori dello Smither sono quelli come il tuo, mi cambia la luce blu, cioè la luce blu ti fa apparire tutto blu, tutti i colori dello Smither blu, in realtà non è così. Vai Franco. Volevo fare il video invece per questi segnali, dai, ve lo faccio. Ma per ognuno? Dai, prova, dai. 1-2-3-4-5, canale 10, frequenza 27.075, ma noi non ce l'abbiamo il contatto. Infatti aspetta, ho detto, ce l'ho il tuo numero. Fatelo dare da Pomponi o da Lucca, chi altri ce l'ha? Boh. No, non ce l'ho neanche quelli loro, io c'ho solo quello di, diciamo, di Claudio, forse c'è anche quello di Natalina, aspetta che guardo, dai. Vabbè, dai, vedete pure. Comunque, vabbè, Giovanna oggi arriva stranamente bene di segnale. Ma hai cambiato qualcosa, Giovanna? Hai messo l'antenna esterna? In terrazzino? No, sono in camera da letto con l'antenna attaccata alla finestra. Ottimo, ottimo. Guarda, ne ha già fatto anche la modulazione. Beh, che da bracco. Avanti bracco. Ho capo, che ringrazio. A me, diciamo, Giovanna mi arriva a Santiago 1, però comprensibilice, un radio 5 addirittura. Grazie. Vabbè, sono vicini, vedi loro? Ma vedi, Roberto, anche lui arriva a 1, eppure in alto, più su di me, vicino a Roberto, vedi? Loro due sono vicini, vedi? Luca, fai il video di Giovanna. Io sono spento il telefono, Roberto. Già, poco fa l'avevo spento, l'ho riacceso e sono spento. Io lo spengo la notte, che capita qualcuno sbaglia e mi chiama. Luca, Marco, no, non c'è l'altro numero, quindi pazienza, dai. Guarda, sono fatta ora io, mi annuncio un po' così, Sta chiudendo, Fabio. Sì, Marco, per me questa è un'ora un po' critica. Poi magari investigare ti spiegherò meglio. Faccio tocca salutare tutti, chi c'è, Franco, Gianni non c'è ancora, Luca e tutti, Pompone, Giovanna, anche Brasco, e mi dico di te Marco, saluti a tutti. Ehi, ciao Fabio, dai, sentiamo. Ciao Maligola, le prossime, dai. Ciao Fabio, ci sentiamo, dai. Buonanotte. Oggi chi surava. Avanti, Franco. Ciao Fabio, alle prossimine. Avanti, Alessio. Alessio. Io sono qui a capo. Riprendi Giovanna. Ripreso. No. E ci è rimasto, Bracco, ci sei? Sì, ci sono. Beh, prima di tutto i saluti per l'amico Fabio che sta andando via. Ciao Fabio, ho detto la tua sera molto bene. Ma praticamente che ti è rimasto? Marco, se mi rimane, Luca, Franco e poi? Doppio room, Alessio, però ogni tanto qualcuno non risponde, non risponde più all'appello. Qualcuno è a quest'ora cominciare a dormire, qualcuno diciamo si assopisce, si dimentica, si sta modulando. No, io sono entrato con la speranza di che c'era Roberto, invece non c'è nemmeno adesso, dai. Ma non voglio telefonarle, però si è già letto quello. No, non lo so. Aspetta, faccio una fatturata negli altri canali, che non c'è qualche altro canale, aspetta. No, Roberto domani lavora, quindi se ne sarà andato a letto. Piccate, che ore sono? È 10:30, sono di Ferraffa, Quando non si trattiene, lo fa male. Anche noi abbiamo ripreso a orario pieno, da oggi. Vabbè. Beato che riprende. Però ho sentito oggi la giornata, un po' più pesante delle altre, vabbè, ho lavorato anche in campagna stasera, quindi ho fatto uno e l'altro e ti dico che sono un po' stanco anch'io. Vabbè, vuol dire che sei abbastanza forte ancora. Come l'accetto? Beh, fortuna fatta, mamma. Adesso ce n'è la roba da mangiare, no? Si è preso la pizza. Cacchio, io ho due serie che dimentico l'iniezione, molto male. Ma cosa sei diabetico, Marco? No, è somatropina, è un ormone che è venuto a mancare dopo l'ambaradan. Ah, capito. E infatti vedere la pompa un po' di ormoni. Eia, se non lo prendo mi trasformo in uomo lupo di notte. Pompo non è ormoni da prendere, da Marco. Ma l'ormone della libidine è quello di Marco. No, quello è l'ormone della crescita, che poi negli adulti non serve a crescere, però fa molto bene alle ossa e ai muscoli. E se viene a mancare ne soffrono ossa e muscoli e chissà cos'altro pure. Quindi ti indebolisce. Aspetta, voce già, quindi? Ti indebolisce, dico. No, quello è patologico mio, io già è una vita che sono deboluccio. Vabbè, ci vuole qualcosa per rinforzarti allora. Sì, quelle certe mattine che devo fare un po' di commissione mi prendo di quelle Red Bull o simili, no? anche quelle di Ruspin, quelle Red Bull dei poveri, taurina, caffeina, sì, te la dà la bozza, ma il cuore poi sale di, che è un bijou di attacchi cardiaci. Perché sono bevande che contengono molta caffeina. Io quelle le prendo quando lavoro di notte, mi.